Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Simone Pizzi. E carissimi amici di Runtime Radio, soprattutto questi nuovi amici di Twitch, quindi il canale Twitch di Runtime Radio, benvenuti a questa nuova puntata di Quando eravamo futuro. Lo spieghiamo un po' per gli amici di Twitch, quindi le persone nuove che ovviamente non seguono la nostra radio, mentre che noi siamo comunque in connessione alla nostra web radio runtimeradio.it, quindi decidete voi dove ascoltare o vedere questo episodio. Quando eravamo futuro è un programma che noi definiamo di società e cultura degli anni 70-80, spazio-temporalmente dislocato, perché chiaramente non siamo negli anni 70 e 80. Per tutti i ragazzini invece che vengono su Twitch e si aspettano di vedere delle persone giovani, noi non siamo delle persone giovani, io non lo sono, immagino che questo impatto vostro potrà essere un po' drammatico, ma vi assicuro che potrà anche peggiorare, anche fra pochi secondi, perché insieme a me, Simone Pizzi, ovviamente c'è un nostro storico conduttore di Runtime Radio, ma soprattutto membro di Quando eravamo futuro, Davide Gatti. Ciao Davide. Ed eccomi qua, buonasera a tutti, grazie di avermi dato del ancora più vecchio. Ancora più vecchio. Che è vero, infatti sì. Peraltro è vero, questa sera sono senza barba, sembro anche un po' un faccia da, non voglio dire il termine. Sei un po' sparato con la luce, io avrei attenuato un po' i LED, insomma. Forse hai attenuato un po' troppo adesso, c'è una via di mezzo, non c'è una via di mezzo, no? È tre livelli, questo è il penultimo. Comunque, in attesa che arrivi poi Carlo Sant'Agostino, che ci raggiungerà, insomma, fra poco, adesso infatti vedo un attimo se mi arrivano delle comunicazioni, portiamo un po' di gioventù. Diciamo una via di mezzo in contrapposizione una persona che è un po' più giovane, ma che è anche azzeccata con quello che è il tema della giornata, e vi presento il nostro carissimo amico, già ce l'abbiamo avuto, diciamo, ospite sul canale di archeologia informatica, sul nostro canale YouTube, insomma, Federico Gori. Ciao Federico. Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, è un piacere essere stato invitato da Simone qui in trasmissione, mi fa veramente piacere, guarda. Sono molto contento. Allora presentiamo Federico. Federico è un videomaker, regista, esperto e appassionato ovviamente di video, insomma, sia dal punto di vista della costruzione e anche dell'editing, ma soprattutto noi lo abbiamo conosciuto, cioè io perlomeno, poi dopo insomma gli altri, perché oltre a essere spesso presente nelle varie fiere di retrocomputer, quindi tutto quello che è il mondo della retroinformatica, dell'informatica storica e quindi tutto il mondo del collezionismo, lui in particolare è diciamo attento a quelli che sono, cioè, c'entra relativamente con l'informatica ma molto con l'elettronica, quelli che sono stati i formati video del passato, che lui proprio è super affascinato da questo, giusto? Sì. Vai, no, raccontaci. No, nel senso che a parte la passione, diciamo, per le oscurità videoludiche e non, però appunto anche la parte video, insomma, i vari formati video, anche qualcosa di audio che ci sono stati nel passato, sono qualcosa effettivamente mi ha sempre affascinato. La colpa principalmente si può dare un po' al retaggio familiare, quindi mio padre mi ha un po', diciamo, ispirato da questo punto di vista, anche un po' per la scelta poi di questo scellerato mestiere che sto cercando di portare avanti. Chiedono se sei in pigiama. Sì, Davide. No. Una maglietta. Ah, bella maglietta. Sì. Beh, in effetti si vede che non è un pigiama, Vincenzo, che dici? Esatto. E niente, appunto. E devo dire che con i formati video, sì, a parte che in casa nostra ci sono sempre stata una buona quantità di VHS, eccetera, eccetera, quindi insomma, giustamente io sono comunque un figlio degli anni 80, quindi è anche normale, però voglio dire, però è stato quando nel 2008 ho comprato per caso, per curiosità, un lotto di di Laserdisc, quindi di film in Laserdisc con un lettore insieme su eBay all'epoca per prezzi veramente molto molto molto bassi, che mi sono affascinato, e da lì ho cominciato un po' la ricerca sui vari formati, e poi mi ha portato insomma nel tempo a approfondirne diversi, più che altro quelli diciamo da grande pubblico, e ora poi sui professionali magari un po' meno, però effettivamente ho scoperto dei mondi incredibili, cioè cose veramente proprio dei territori che non credevo neanche esistessero, e quindi da lì siamo andati alla grande. Bene, no, infatti che poi è attinente con questo tipo di puntata. Intanto salutiamo anche gli amici di rantemedio.it, quelli ci stanno ascoltando direttamente in web radio, e quindi sulla chat telegram.me /dirette runtime già ci stanno salutando, c'è Luca S, Walter Sbano e ovviamente anche Andrea Trevisan, che potrebbe anche venire qui su Twitch, ma no, va bene, se si trova più a suo agio lì va bene così, e quindi saluto tutti quanti. Dicevo, è attinente con questo tipo di episodio perché oggi, e poi lascio la parola a Davide, noi in Quando Eravamo Futuro abbiamo raccontato tante transizioni, no? Tecnologiche e culturali che hanno comunque cambiato le nostre abitudini, i nostri modi di fare, in un'epoca in cui non esisteva tanta standardizzazione ma esistevano tante idee, no? E ovviamente anche oggi, dopo aver parlato molto ovviamente dell'era della pellicola, delle fotografie, dell'8 mm e di quel modo ovviamente di memorizzare tra virgolette i propri ricordi, a un certo punto insomma le tecnologie sono cambiate, si è passato dal chimico, quindi dal celluloide, si è passato al magnetico, Davide, cioè nel senso che a un certo punto i videoregistratori o comunque nuove tecnologie sono entrate nelle nostre case, creando un nuovo modo di affrontare l'home video, insomma, l'intrattenimento televisivo in maniera diversa. Esatto. Eh sì. Quindi? Quindi no, no, quindi io... I tempi. Hai ragione, scusami. Stavo leggendo... Il documento, ok. Di il documento, stavo leggendo la chat, a dire la verità, ogni tanto la leggo anch'io. Comunque, inizio con quello che è, diciamo, l'inizio della nostra trasmissione, per poi dopo proseguire con tutto il nostro discorso e il percorso. Quello che racconto adesso è un po' quello che è stata la mia esperienza iniziale di tutto ciò. Era il 1984 e mio padre un bel giorno ha portato a casa un grosso apparecchio che sembrava venuto dal futuro. Sapevo dell'esistenza, ma non pensavo di vederlo a casa mia così presto. Ricordo che venne un tecnico per installarlo e ci spiegò come funzionava. Eravamo tutti lì intorno e non vedevamo l'ora di poterlo utilizzare. Era un videoregistratore. Non ricordo la marca, il modello, ma era immenso. Eravamo tutti lì in ammirazione nel vederlo funzionare. Contemporaneamente il vecchio proiettore Super 8 finì in cantina per sempre. In dotazione c'era un solo film, il titolo era Krull, un fantasy mediocre, ma ancora oggi lo ricordo con affetto perché quel film lo guardai fino a consumarlo. Col tempo prendemmo confidenza e scoprimmo che si poteva registrare di tutto, tutto quello che volevamo dalla TV. Era un tempo in cui valeva ancora la pena registrare qualcosa dalla televisione. Da quel momento in poi il modo di fruire la televisione e il cinema cambiò e non fu mai più lo stesso. Ricordo il periodo delle videoteche, grazie alle quali era possibile organizzarsi le serate decidendo di vedere quello che si voleva, stando seduti comodamente sul divano. Poi arrivarono i film a luci rosse e il videoregistratore divenne il nostro. E ne abbiamo parlato di questo, Sì. Dopo un periodo di stabilità ci fu un periodo di continue transizioni e i mezzi per fruire questo tipo di contenuti in continua evoluzione. Oggi quei momenti sono solo un lontano ricordo e stasera cercheremo di ripercorrerli assieme. Bene, sì, perché in realtà, come abbiamo detto, questo è un percorso che noi abbiamo già intrapreso, perché poi le situazioni cambiano, le esperienze cambiano sicuramente, però quello che non è cambiato è un po' un certo tipo di percorso, no? Che abbiamo già raccontato, perché queste situazioni, queste storie in realtà sono trasversali a tante altre, no? Come abbiamo parlato insomma del porno negli anni 70 e 80, e quindi giustamente c'è un collegamento anche in questo. Ma la cosa bella è che secondo me ognuno di noi in quell'epoca, che era comunque un'epoca di stupore, no? Di meraviglia, quando ci si approcciava a determinate tecnologie, o quando tu entravi dentro casa tornato da scuola e vedevi che dentro casa tua era arrivato qualcosa di misterioso, di magico, di bello fondamentalmente. Sì, era veramente magia all'epoca. Ed era magia, perché tu non è che ti ponevi pure il problema di come funzionava, come non funzionava, a te quello che ti bastava è quello che faceva. Io mi ricordo il primo televisore a colori, così come il primo videoregistratore, che poi con i videoregistratori noi ci abbiamo fatto anche tanto altro, no? Oltre a vedere i film, magari non video e via dicendo. Ecco, io partirei proprio da qua, in attesa che poi arrivi anche Carlo, partirei un attimo da qua, poi ovviamente Federico ci aiuterà molto da un punto di vista anche un po', forse anche tecnico, per capire perché certi formati piuttosto che altri. Chiaramente per lui forse è diverso il tipo di approccio esperienziale, perché lui è un po' più giovane, no? Rispetto a quello che è chiaramente me e Davide, no? Però io mi ricordo una cosa, e vorrei partire da questo, che il mio primo videoregistratore a casa era un Betamax. Mio padre arrivò con una valigia gigantesca, perché il Betamax, in particolare quel Betamax che avevamo noi, che era della Sony, oltre al fatto che lui aveva comprato tutto l'apparato base, quindi l'apparato fisso, aveva comprato anche una telecamera che era enorme, ragazzi, una cosa incredibile, e sembrava una telecamera televisiva. Poi sapemmo dopo, ovviamente non subito, perché sennò mia madre l'avrebbe cacciato di casa, che aveva speso un fracco de anni di stipendi, insomma. Possiamo immaginare. E praticamente questo Betamax era composto da una base sotto, che era la batteria, che attaccato alla corrente alimentava gli altri moduli e si caricava, perché quando tu andavi in giro con la telecamera dovevi portare a spallaccia anche questa batteria, perché era il sistema di alimentazione della telecamera. Una cosa incredibile, ragazzi, a pensarci oggi sembra veramente stiamo parlando di un mondo primitivo, però era così che funzionava. Poi c'era un modulo che era quello di sintonizzazione, e poi sopra c'era il modulo del nastro, praticamente, fondamentalmente la meccanica, sì, tutta la parte meccanica, esatto. Era diviso in tre moduli, poi probabilmente quelli un po' più avanzati erano due moduli anziché uno, o un modulo che contemplava tutto. Questo era fatto così. E quando tu andavi in giro, ovviamente ti devi portare, insomma, tutto sto baradam. E per tantissimo tempo questa telecamera, che mio padre ha usato un pochino così, perché lui aveva in quel periodo di grande boom economico, lui spendeva soldi per cose che poi ho utilizzato io, come ho rappresentato in una volta, quando ho spiegato che per esempio sull'ambito della pellicola, cinepresa, proiettore, moviola dentro casa li usavo io, non li usava lui, anche se ero un ragazzino, mettevo lì cavo biancucci e via dicendo. E più o meno è quello che è successo anche con questa strumentazione, perché con quella telecamera, quando ero diventato un po' più grandicello, ci andavo in giro a fare interviste, anche se eri comunque un ragazzino, però la gente ti vedeva con una telecamera che era grossa quanto te e pensava che fosse una cosa seria, quindi la gente si fermava, rispondeva, no? faceva le cose. Ed ecco, il mio primo impatto è stato questo, ed è stato bello proprio perché mi ha dato un ulteriore strumento. Successivamente, ovviamente, a quello della pellicola, che era diventato un po' complicato, no? Sai, le pellicole costavano tanto quanto e tutto quanto, mi ha dato questo strumento per poter fare ulteriori cose, creatività, cose, insomma, anche piccoli cortometraggi, cose che ti inventavi lì per lì con gli amici, e per me è stato veramente una grande magia. Poi, come dice giustamente Davide, è arrivato il porno, è arrivato gli home video, quindi i film in cassetta e via dicendo. Però c'era un piccolo problema, e qui poi dopo ci dice anche, ci spiega un po' anche Federico, che insomma dei film in Betamax se ne trovavano pochi, no, diciamo. Sì, no, diciamo che questi formati qui, insomma, sono nati tutti più o meno nello stesso periodo. Il Betamax prima della VHS, però entrambi erano nati, come anche alcuni esperimenti precedenti, perché in realtà non sono i primi formati pensati in ambito casalingo, no? Questo, insomma, poi magari dopo lo approfondiamo, però erano nati principalmente per fare videoregistrazione, quindi per registrare i programmi televisivi o quello che veniva andato in televisione, perché giustamente la televisione era un mezzo visto come il futuro all'epoca, no? Nel senso, ora che c'entra, in America era già diffusa da un tempo immemore, e anche da noi comunque ormai erano già, insomma, almeno 20 anni buoni, no? Che c'era la televisione. Però la possibilità di potersi registrare qualcosa che ci piaceva e poterlo rivedere era una cosa, era una conquista, diciamo. E per questo motivo il formato è nato, infatti, essenzialmente, cioè questi formati, essenzialmente l'idea dei film pre-registrati sopra, quindi film già presenti, come appunto Krall, che ha citato prima Davide, di cui tra l'altro io sono fan, quindi io sono un grande fan dei fantasy, nonché B-movie, eccetera, quindi io Krall lo adoro, però appunto e, per dire, quindi quest'idea dei film pre-registrati sopra è arrivata in realtà dopo, è arrivata verso la fine degli anni 70, c'erano i primi esperimenti anche in Italia, tra l'altro ho scoperto grazie a un gruppo Facebook di cui faccio parte che c'erano alcune, diciamo, piccole case anche verso Torino che si erano, insomma, mosse per fare non si sa bene quanta legalità o meno, diciamo, quindi film preregistrati. Da lì in poi è nata un po' la cosa, però generalmente era nato per registrare cose televisive. Infatti la guerra si è tra Betamax e VHS si è molto prolungata proprio sulle capacità di registrazione, ecco. Capito? Ok, sì, in effetti, no, perché poi comunque, vabbè, poi ci arriviamo dopo a questo. Davide, invece il tuo ingresso, ecco, il momento in cui l'hai un po' raccontato, però insomma anche emotivamente, perché quello che ci faceva la differenza è che quando oggi tu vai a comprare il nuovo televisore piatto, lo metti là, sei contento perché hai fatto la tua scelta, la cosa che tu hai voluto, però ovviamente chiaramente non ci può essere lo stesso impatto in cui tu per la prima volta hai visto una tecnologia entrare, no? Cioè, quindi una sorta di prima volta, no? Le prime volte sono quelle che comunque alla fine ti stupiscono sempre, ti lasciano sempre. Sì, io devo dire che da ragazzo ho avuto tante prime volte, forse a dire la verità troppe, ancora... dici, troppe prime volte. No, quando ne abbiamo parlato tante volte anche noi qua, in quando eravamo futuro, devo dire che gli anni 70-80 sono stati anni di tantissime cose, abbiamo vissuto veramente tantissime cose nuove da tutti i livelli, tecnologicamente parlando in particolare, no? E quindi abbiamo visto veramente nascere tantissime cose e tante volte erano sempre emozioni. Adesso effettivamente, ma forse perché sono vecchio, faccio molta più fatica ad avere queste emozioni. Allora, Walter ci dice il Betamax c'avevano gli zii ricchi, l'avevano comprato alla base NATO di Bagnoli, quindi erano da Napoli, era roba per pochi. Quando tu dici che avevi quella roba lì e andavi in giro come ragazzino, se lo diedero sempre sui denti, vabbè. Ma questa è la stessa cosa. Io mi ricordo che l'unica cassetta, quindi videocassetta acquistata in Betamax che trovammo noi, e tra l'altro salutiamo anche il nostro amico Trevisan che dice mamma mia sono su Twitch, che emozioni, che emozioni incredibili, emozioni. Ciao Pixel Deb, ciao Debola. Diciamo che non mi ricordo che stavo a dire mentre che leggevo l'unica cassetta, mi ricordo che era lo scudetto della Roma dell'83, no? Che, vedi? Che culo. Sì. Però pur essendo della Lazio e non avendo in simpatia, come voi immaginate, insomma, la Roma, lo comprai uguale perché volevo vedere com'era una cassetta che non era una cosa prodotta da te, e tra l'altro comunque il Betamax era tendenzialmente migliore, no? Cioè, nel senso, come formato. Era migliore davvero, no? Sì, all'epoca sì, nel senso, poi i registratori l'hanno, diciamo, col tempo, le varie cose, superato un pochino su alcune cose, però effettivamente era migliore, ma costava anche un tonfo di più. Quello che ho letto io, costava molto di più il Betamax. Costava sicuramente, però dico appunto, quando tu uscivi con la telecamera, col Betamax, a parte che dimagrivi, però oltre a dimagrire, quindi l'aspetto strettamente salutista della cosa, chiaramente c'era anche un fatto che era più legato all'aspetto anche la professionalità dell'oggetto. Certo. Tra l'altro, una cosa che molti non sanno, perché oggi noi siamo abituati a fare i video con i cellulari, quindi, cioè, se tu pensi che in un oggetto così, una volta per fare delle cose decenti ci dovevi un oggetto così, e questo, vabbè, esatto, è anche il simbolo dei tempi, ma erano anche videocamere che avevano anche una forte persistenza dell'immagine, soprattutto sulle alte luci, no? Quando passava una luce davanti all'obiettivo, rimaneva sempre questa scia di persistenza, che era una cosa terribile, no? Poi dopo ovviamente le cose sono andate migliorando, però ecco, diciamo che nei limiti di oggetti che bisognava un po' sapere anche usare, c'era comunque il fascino della scoperta. Tu ti mettevi lì e ti imparavi, no, ad utilizzare cose che altrimenti non avresti potuto o saputo utilizzare. No, Deborah, non devi scrivere queste cose brutte. L'ho detto io qualcosa, quindi non scrivere altre cose brutte. No, infatti, guarda, ti posso dire che mio padre, infatti, utilizzava una telecamera simile a quella che ricevi se Betamax, però in VHS, quindi sempre col registratore a spalla e tutto, perché le avevano fatte poi anche in VHS, e quindi lui, infatti, usava quella. Tra l'altro, era buia, buia, buia, veramente. Buia, ci voleva una tonnellata di luce. Sì, assolutamente. Terribile. Assolutamente, questo assolutamente sì. Vai, Davide. Sì, no, Simone, ricordavo solo che tu all'inizio hai detto che avevi preso questo Betamax che era Sony, e ti dico che poteva essere solo Sony, perché Betamax, esatto, è stata un'invenzione della Sony, e la Sony stessa credo che abbia pagato le conseguenze di non offrire il loro formato anche ad altri, ma di tenerlo, come fa sempre Sony, chiuso a casa loro, dicendo questo lo facciamo solo noi e basta. Ed è forse anche uno dei motivi per i quali il non ha lottato ad armi impari rispetto agli altri formati, ecco, perché la Sony aveva questa mentalità molto chiusa, ecco, su tutto. Sì. Infatti hanno vinto tutti quelli che hanno consorziato poi, no, magari, esatto, la tecnologia, sì, no? Tutte quelle tecnologie, sì, che poi alla fine comunque il brevetto messo a disposizione di tutti, e tutti hanno prodotto, creando poi ovviamente un mercato, perché chiaramente, sì, se 10 avevano VHS e uno c'aveva Betamax, sicuramente il mercato inevitabilmente, no, ecco. Poi i costi si abbattevano, perché quello lo produceva solo Sony, i costi si riducevano se ne vendevano tanti, ma non poteva vendere più di tot, a parte i suoi limiti, che oltre alla qualità aveva anche dei limiti di durata, aveva le cassette che avevano una durata un po' più corta rispetto al VHS, sì. Ma il VHS, appunto, senza consorziato, lo producevano in tanti, i costi si sono abbassati rapidamente, e chi faceva i film diceva: li facciamo per chi ne vendiamo due o per chi ne vendiamo 10.000? Certo, o per quelli che ne vendiamo 10.000. No, e tra l'altro, infatti, ho letto che infatti fare film su videocassetta inizialmente era una cosa molto costosa, proprio perché il costo delle cassette era alto, però con il fatto della altissima diffusione poi chiaramente del formato VHS, insomma, fu possibile. Effettivamente negli anni ho scoperto che c'era comunque un mercato anche di Betamax e di un altro formato ancora, di cui magari si parla dopo, però effettivamente c'era molta meno roba, cioè per un periodo ce n'è stata abbastanza di film anche in Betamax, però erano più difficile, cioè, sì, diciamo che in Italia era veramente difficile, perché comunque, sì, quello era già un periodo in cui incominciavano a nascere i negozi di noleggio e via dicendo. La roba Betamax non esistevano in quei negozi dove il VHS, la cassetta, te la vendevano, e allora su 10 cassette in vetrina c'erano quelle 2 o 3 anche in Betamax. Però poi magari non ti interessava il tema, no? Nel senso, intanto ho sentito un bip, quindi dovrebbe essere arrivato anche il nostro carissimo amico. Mentre intanto tu ti riorganizzi, io dico un'altra cosa che magari molti non sanno, che Carlo è in macchina, ti sta arrivando. Buonasera. Questa sera, ragazzi, mi dispiace, ma veramente ho fatto troppo tardi al lavoro e sono ancora in macchina, ho detto vabbè. Beh, lo vediamo, ce la facciamo a vederlo che sei in macchina. Intanto siamo qui. Esatto. Vabbè, e intanto ci fa piacere sapere che sei qui con noi, anche se sei in macchina, e vabbè. No, ma magari, cioè, tu vuoi stare oppure ti vuoi rilassare, vuoi lasciare perdere, perché non c'è problema, eh. No, beh, tranquilli, sto qua un po', poi vediamo, perché tanto purtroppo mi ha chiamato pure mia figlia, che è rimasta a piedi senza treno, quindi mi tocca anche andare in stazione a Brescia a prenderla. Mannaggia, che brutta vita che fa questa della giornata. Che brutta vita che fa quest'uomo. Però oggi c'era un degno sostituto, quindi siete sempre comunque in tre. Ah, beh, se mancavo io. C'è Federico, giustamente, che fa. Esatto, c'è il grande Federico, che è il mega esperto totale dei sistemi video, quindi non sentite la mia mancanza oggi. Comunque volevo anche raccontarvi che fine ha fatto poi ovviamente quella bellissima tecnologia Betamax che avevo a disposizione. Perché praticamente io veramente, ragazzi, ci andavo in giro per, andavo al centro di Roma, a Via del Corso e così, e intervistavamo le persone, le ragazze, facevamo un po' i tacchini con queste cose qua, però veramente la gente si fermava perché l'oggetto, diciamo, ti istituzionalizzava in qualche maniera, sì, cioè, autorevole, diciamo, ma una telecamera così era per forza della telecamera, noi c'avevo il microfono, capito, collegato, quindi veramente sembrava una cosa fatta. E quindi, però, una volta, delle tante volte che ho fatto questa cosa qui, tornando praticamente a casa con un mio amico, entro dentro l'ascensore, poggio per terra la telecamera perché, come ho detto, era un oggetto bello pesante, poggio per terra anche il battery pack che era, come abbiamo detto, era una cosa che ti portavi a tracolla, entra un ragazzo con un coltello e fa, dice, dammi tutto. Ovviamente lui stava cioè sulla porta, quindi non c'avevo via di fuga, non c'avevo possibilità di fare niente, e però lì per lì non mi ero neanche accorto di niente. Vedo questo amico mio che prende le cose da per terra, gliele dà questo e questo scappa. Io mi guardo questo amico mio e dico, ma che cazzo stai a fare, scusa? E poi dopo, insomma, mi sono reso conto e andai a denunciare questa cosa, e fu una cosa dolorosa perché per anni io comunque con quell'oggetto mi ci sono veramente divertito, no? E dico, quando sono andato a mio padre ero disperato perché dico, mo capirai, lo dico a mio padre, sarà costata chissà quanti soldi, e lui mi disse, vabbè, peggio per te, tanto la usavi soltanto te, insomma, questo è un po', no? Meglio così. Comunque volevo ricordare un'altra cosa sul Betamax che ho letto oggi, che neanche sapevo io, magari non lo sanno, lo sanno in pochi. Comunque, proprio la Sony, con questo prodotto che poteva registrare, e quindi poteva duplicare tra virgolette dei film o comunque delle trasmissioni, fu stato uno dei primi casi di denuncia da parte di Disney e di Universal, sì, Picture, per pirateria, perché con questo dispositivo favoriva la pirateria dei loro contenuti. E fu una causa lunghissima che durò anni, anni e anni, e la Sony dovette combattere da sola, perché quando poi uscì il VHS praticamente questa battaglia finì, però l'ha combattuta praticamente solo Sony, e Sony ha dovuto veramente disperdere un sacco di risorse e ebbe anche un danno sull'immagine. E quindi quando poi arrivò il momento del VHS, il VHS tra virgolette ha avuto vita facile nel vincere, sia perché era consorziato e sia perché comunque Sony non aveva più soldi neanche da investire quasi su quello standard, volendo provarci. Ma infatti, volendo coinvolgere anche Carlo in questa disquisizione, anche qui è successo quello che è successo in tanti altri ambiti, compresi i videogiochi, cioè che uno standard diventa sinonimo, no? Cioè, nel senso, noi non dicevamo il VHS, infatti leggevo anche il messaggio del nostro utente, dice, io ho avuto soltanto il VHS, dopo anni ho scoperto che c'erano altri formati, e quindi praticamente tu, quando non è che dicevi ho il VHS, dicevi ho il videoregistratore, che diventava sinonimo, no? In senso più assoluto. Sì, sì. Carlo. Dicevi ho il VHS per dire ho il videoregistratore, cioè VHS che era un marchio era diventato sinonimo di videoregistratore e videocassette. Non dicevi, esatto, più videocassette o videoregistratore, dicevi VHS, vai a affittare la VHS, hai preso una VHS, perché ormai era diventa come il Walkman, come è successo per il Walkman nella musica, esatto, come è successo per l'iPod negli MP3, sì, come è successo per l'Atari, la Nintendo, la PlayStation, esatto. C'hai la PlayStation, cioè la console dei giochi era la PlayStation. Avevi una console, le prime console erano tutte Atari, le seconde console erano tutte Nintendo, le terze console erano tutte PlayStation. Vabbè, questa è una cosa che... A seconda delle generazioni, ovviamente, poi uno si... generazioni umane, non di console. Perché non esistono le generazioni di console, giusto? No, non esiste, non c'è delle console. Non quelle che normalmente vengono pubblicizzate. Tra l'altro, c'è giustamente Trevibo, che insomma è Andrea Trevisan, lo dico così almeno i carabinieri possono andare a prendere. Lui, dato che parlavamo del fatto che il Betamax in realtà era un formato proprietario di Sony e esclusivo di Sony, lui dice, vabbè, la stessa cosa che fece Sony con le memory stick. Sì, ma infatti la Sony lo fece con tutto, no, l'ha sempre fatto. Lo fece anche con i quando c'erano i CD, la Sony aveva fatto il suo formato registrabile, come si chiama? I mini disc, certo, sì, come alternativa. Ha sempre fatto il suo formato. Sì, diciamo, sì, ha sempre l'unico formato della Sony che è diventato poi in realtà standard e l'ha ceduto e l'hanno usato tutti, è stato il floppy disk da 3,5 pollici. Ecco. Che l'ha inventato, pochi lo sanno, ma l'ha inventato Sony. Il formato del floppy da 3,5 pollici è di Sony. Allora qui c'è una questione che divaniamo immediatamente, perché Deb dice: ah, VHS era un marchio, cioè nel senso non lo sapevo, e Olic 14 dice è uno standard più con marchio, ma in realtà il VHS era un consorzio, cioè un brevetto messo a disposizione in un consorzio, quindi di conseguenza era anche tra virgolette un marchio della JVC. Era comunque tra virgolette anche un marchio, no? Cioè alla fine inevitabilmente, proprio perché comunque diventava come MSX, che era un consorzio, e come tanti altri consorzi, cioè, tutti i consorzi hanno il loro marchio. Anche il CD aveva, che è di Philips, come invenzione, certo. Poi anche lui ha il marchio, certo, è un brevetto che poi è diventato standard, anche lui, il Blu-ray, eccetera. Però ecco, e tra l'altro infatti Sony ha collaborato con Philips per fare il compact disc, però ha collaborato, non sono stati soli in quel caso lì, sì, che è stata anche quella una piccola eccezione, però diciamo hanno collaborato insieme, quindi sì. Prima di tornare a parlare di che cosa ci facevamo, perché comunque io poi dopo ovviamente sono passato al VHS, ma adesso ci arriviamo. Per esempio, no? Questo sono curioso, perché io devo dire, sapevo dell'esistenza, ma non ho mai visto niente, compreso l'hardware del Video 2000, per esempio, cioè non so proprio minimamente cosa fosse, come fosse, e se era meglio, peggio, intermedio, buono. Quindi è proprio una cosa. Meglio del VHS sicuramente. Vabbè, lì tutti dice. Sì, sì. Che avevano anche il lato A e il lato B. Esatto. Video 2000. Okay. Sì. Le giravi. Sì. Beh, questa è la gran figata, come le audiocassette fondamentalmente. Esatto. Come era una grossa audiocassetta, esatto. Molto grossa. Più grossa delle VHS, non erano molto molto più grosse, però insomma il Video 2000 ovviamente è nato dopo, è nato risolvendo tra virgolette tutti i problemi che VHS aveva. Il VHS aveva dei grossi problemi, non è che fosse esente da problemi. Innanzitutto no. aveva problemi quando facevi l'avanzamento veloce, ferma immagine, aveva problemi di registrazione di quantità di righe colore, perché sebbene registrasse quasi tutte le righe di luminanza, e quindi tutte le 625 righe, diciamo, nel registro. Vabbè, non andiamo troppo sul tecnico, però. Praticamente perché non si poteva registrare tutto il segnale visivo, veniva tagliato qualcosa, un po' di righe colore venivano tagliate. Erano tutte limitazioni che sono state risolte col Video 2000, e il Video 2000 risolveva la gran parte di tutti i problemi delle carenze del VHS, che però uscì nel momento in cui il VHS era talmente esploso che nessuno aveva voglia di ricominciare da capo. No, infatti. Infatti, consolida uno standard, alla fine è proprio inutile, insomma. Ma infatti, come dicono sempre, il Video 2000 è arrivato terzo in una guerra a due, nel senso che è arrivato dopo. Nel 1980, appunto, quindi diversi anni dopo, e effettivamente da un punto di vista registrazione è veramente un gioiello, cioè fa delle cose io l'ho recuperato in anni recenti, tra l'altro un registratore simile a quello che tra l'altro c'era in foto, e effettivamente è veramente notevole, cioè anche proprio come capacità eccetera è impressionante, perché comunque pensate che può per esempio riprodurre persino l'audio quando si manda avanti e indietro anche rapidamente, cosa che per esempio nessun altro formato diciamo a nastro magnetico insomma poteva fare all'epoca, insomma, eccetera. E poi per esempio poteva arrivare addirittura a 16 ore in long play di registrazione, cioè 8 per lato su alcuni registratori, insomma. Ma era una roba oggettivamente fantascientifica, ragazzi. Qualcuno di voi ha mai registrato in LP? Cioè nel senso, no. Io sì. Registravo i telefilm, no, le serie TV. No, che brutta, che brutta, che brutta cosa, proprio la qualità ci fa schifo proprio, cioè nel senso. Lo so, però non potevi, cioè, o spendevi miliardi in videocassette o ti arrangiavi in qualche modo. Ci si accontentava, guarda che eravamo molto, a meno io, tu magari Simone no, ma io ero molto più di bocca buona, non ero così particolarmente, non guardavo la qualità eccetera, ma sostanzialmente ti racconto, guardavo... una cosa divertente, scusami se ti interrompo, perché mi è venuta in mente quando dicevi che non guardavi la qualità. Io per anni noi abbiamo visto le videocassette ed eravamo abituati alla qualità pessima delle VHS come qualità video. Poi io comprai il DVD già nel 98, appena sposato, uno dei primi, lo pagai uno sproposito, ricordo, ho letto 1.450.000 lire di lettore DVD della Pioneer, e iniziai a vedere con mia moglie i film in DVD, no? Quindi vedevamo Zorro, Godzilla, mi ricordo i primi film in DVD che uscivano con una qualità... Gli stessi che si vedevano col Super 8. Super 8 si vedeva Zorro, Godzilla, uguali anche con i DVD. Però le versioni nuove. E la cosa però divertente è che un giorno... Ecco, siamo ancora collegato sia al videoregistratore che al DVD. Rimisi su un film in videocassetta con mia moglie, non mi ricordo che film fosse. E partiva però di notte con lo scuro, no? E con lo scuro, col VHS, vedevi tutte le righe blu, no? Che passavano. E mi ricordo come se fosse oggi mia moglie: ma si è rotta la televisione? No, non sei più abituata alle videocassette. Praticamente credeva che il fatto che si vedesse così male era perché era successo qualcosa, si era rotta la TV, perché non si ricordava più la differenza della qualità alla quale eravamo abituati prima con le videocassette. La davi come dato di fatto. E poi tra l'altro spesso anche i film registrati originali su VHS magari dipendeva molto anche dal master, perché a volte erano proprio pessimi, proprio, diciamo proprio di suo. Poi la VHS, se registrata bene bene, in realtà non è così terribile l'immagine, però spesso veniva proprio male, cioè era proprio triste. Però all'epoca tutti noi ci ricordiamo che si vedeva perfettamente, bellissimo. Sì, era l'altra definizione, quella che noi definiamo l'altra definizione, non l'altra definizione. Beh, in realtà non ho mai pensato, come ho detto che venivo già dall'esperienza della pellicola, in più mi piaceva molto andare al cinema. Devo dire che l'impatto di un film che tu hai visto al cinema e lo vedevi in videocassetta era un'altra storia, cioè era proprio un'altra roba. Infatti Lucas si incazzò molto su questa storia negli anni, perché dice: io comunque realizzo un'opera che è fatta per essere vista in una determinata condizione, in un determinato modo, tu lo prendi, lo croppi, lo metti in 4/3 in quella maniera, è un'altra opera, linguisticamente è tutta un'altra storia, cioè non... E in effetti era così, cioè nel senso, i film di cassetta, che erano comunque già progettati, pensati per essere visti in cassetta, era un discorso. Le opere cinematografiche importanti tu ce le avevi in cassetta, perché quelle, cioè quello era, non è che ce potevi inventare nient'altro, anche se poi vediamo che ne sono uscite sempre cose. No, in realtà gli amanti del cinema dell'epoca, mi ricordo gli appassionati che conoscevano, avevano, quando io avevo la VHS, avevano tutti il laserdisc, il lettore laserdisc. Vabbè, ma lì costava. Costava. Gli appassionati, quelli proprio, diciamo, i cultori del cinema, quelli che volevano vedere i film bene, avevano il laserdisc, i film avevano il laserdisc. Comunque tanto ti ho detto che poi ne avremo parlato dopo, però. Comunque Simone, nelle parole hai ricordato una cosa che ci eravamo dimenticati, sì. I videoregistratori erano tutti in 4/3, quell'epoca lì era tutto 4/3. Era tutto 4/3, la televisione era 4/3, di conseguenza inevitabilmente. Sì, va bene. Avevi però anche il letterbox, cioè sì. C'erano dei film che non venivano tagliati, li vedevi con la banda sopra e la banda sotto. Ma era un'eccezione, tant'è sì. Che spesso e volentieri sulle copertine dei dischi, spesso e volentieri nelle copertine dei film, quindi nelle VHS, ma questo è successo anche con i DVD, se non mi ricordo male. Comunque era indicato se era widescreen, cioè nel senso, certo, c'era proprio indicato, scritto, specificato, proprio perché non era una consuetudine, no? No, infatti. E in effetti vedere un film in formato 2:35 su un 4/3, ragazzi, significa praticamente avere uno spaghetto al centro dello schermo, insomma, fondamentalmente. Vai Carlo. No, va bene, solo per dire che mi ricordo i primi film della Pixar, mi ricordo perfettamente Zeta la formica, per esempio, e anche Toy Story, il primo Toy Story, L'edizione domestica era completamente renderizzata in 4/3, cambiando le inquadrature. Infatti erano proprio due film diversi. Cioè, ah, sì, sì, è vero, è vero. Sì, sì, è vero. E è quello vero. Da casa in videocassetta era, e anche in DVD, anche la versione in DVD, era fatta rirenderizzata in 4/3. Sì, sì, quindi cambiando il quadro, spostando i personaggi e mettendo tutto a posto in... Una cosa di servizio, Carlo, togli la mascherina a sinistra che si vede davanti al tuo, quella appesa. No, e per esempio, addirittura. Vabbè, chi se ne frega della mascherina? No, no, e, ad esempio, in alcuni film addirittura toglievano le bande per fare la versione in 4/3, per cui spesso magari, diciamo, potevi anche vedere, che ne so, i microfoni, quelli classici, no? Dall'alto che si vedeva, e te dici, ma come hanno fatto a lasciarli nel film? No, perché essenzialmente non c'erano nella versione cinematografica, ma in quella poi in videocassetta, avendo tolto le barre, diciamo, poi in lavorazione, effettivamente c'erano, perché loro li facevano già, nel senso, pensando al formato cinema. E mi è capitato tanti film dove... Sì, diciamo che questo è successo in epoca più moderna, perché comunque nel passato, quando i film venivano girati esclusivamente in pellicola, l'effetto CinemaScope era un effetto ottico, non era un effetto di cropping, cioè, nel senso... quindi era, cioè, una lente anamorfica che esistono ancora oggi, grazie al cielo, e che ti permettono fare quel tipo di cosa. E poi ovviamente la lente che tu applicavi sul proiettore era un'altra lente anamorfica, però al contrario, quindi estendeva, e praticamente venivano questi fantastici formati panoramici, che nelle videocassette ovviamente erano irriproducibili. E infatti alcune videocassette non è che venivano copiate, cioè, nel senso, fatto il procedimento di nastrificazione, insomma, non so adesso come si chiama, ma addirittura venivano proprio lavorati alcuni pezzi, proprio perché in funzione di alcune cose che dovevano entrare nell'inquadratura e non potevano entrare nell'inquadratura. Sì, quindi sì. C'erano tanti limiti, tanti problemi che si creavano in un'epoca in cui ovviamente non c'avevamo il televisore 16 noni, che se poi dopo tu andavi a vedere in 2.35 non ti cambiava più di tanto, insomma, no? Perché poi il 16 noni è arrivato veramente come standard in Italia, è arrivato abbastanza tardi in generale, erano metà degli anni 2000, poi alla fine, insomma, se non ricordo, sì, 2003, sì, 2004. Era già molto diffuso il DVD, che infatti i DVD erano in 4/3 anche loro. Esatto, esatto. Esatto, erano in 4/3 pure i DVD, è vero. Sì. Che tristezza. Non so, c'è stato tutto anni, credo, dove io ero incazzatissimo, perché praticamente negli anni di transizione tra 4/3 e 16 noni vedevi tutti grassi anche in televisione, perché sì, la gente comunque anche anche all'interno delle TV, tipo al telegiornale, no? Mettevano il monitor a 16 noni e mandavano l'immagine a 4/3, erano tutti ciccioni perché venivano sì. Sì, diciamo, poi adesso rifacciamo un passo indietro per tornare un attimo alla nostra, però prima di fare, diciamo che quando sono uscite le prime videocamere consumer o prosumer in mini DV, quindi quelle sul nastro, ma che comunque scrivevano in digitale, in realtà, se voi vi ricordate, avevano due modalità queste telecamere per il 2.35, cioè no, per il 16 noni in quel caso, che erano uno quello delle bande, quindi era un 4/3 con due bande, o l'altra soluzione era quella del video compresso, del video schiacciato, e che era già più un quasi vero 16 noni, quindi erano tutte emulazioni. Poi era esattamente il vero 16 noni. All'inizio il PAL standard era per fare il 16 noni non cambiava la risoluzione del PAL, semplicemente la allungava, e quindi tu avevi un 4/3 con la ripresa schiacciata, ma sì, la risoluzione era sempre 720x576. Sì, sì. Era il coso, lo chiamano squeeze, cioè squeeze, scritto, esatto. Nelle opzioni squeeze, sì. Ed era l'unico modo per fare 16 noni in PAL, sì. Anche in NTSC, cioè non è che c'era un altro modo, sì. Con lo standard televisivo. Comunque, ritorniamo al, insomma, poi al padrone di casa, poi fondamentalmente, ecco, le vostre esperienze, partendo da Davide, tu che cosa creavi con il VHS? Vedevi soltanto le cassette? Io ammetto che non ho fatto molto, ho fatto molta più fruizione che... Allora, sicuramente con le videocassette mi sono completamente riallineato nel mondo Star Trek. Io tutto il tutto quello che è sparito, scusa, è sparito Simone, non vorrei che sia caduto. Ci sei Simone? Simone? Mi sa che è caduto, va bene. Ok, è caduto Simone. Ah, allora, eccolo. No, non sono caduto, scusate un attimo, voi continuate un secondo, eh. Sì, adesso sì. Ritorno. Ok. Quindi dicevo che l'OKS in particolar modo è entrato nella mia casa nel racconto che ho fatto all'inizio, è iniziato con quel film che abbiamo, che era l'unico che avevo e continuavamo a vedere quello. Poi arrivava un amico in casa, ti faccio vedere il videoregistratore, vediamo quel film. Arrivava un altro amico, guarda, c'ho il videoregistratore, c'è il film, guarda, e vediamo quel film. Insomma, alla fine l'avrò visto 100.000 volte perché lo vedavamo come... perché era una super mega novità, insomma. E poi devo dire la verità, nel mio palazzo, che era un grosso palazzo con tanti piani, con tante persone, tanti amici, ero per il momento l'unico che in quel momento aveva un videoregistratore di quel genere per le mani, pur essendo il 1983, insomma, quello che era. E quindi scusate dell'assenza, ragazzi, sono tornato. Avevo un sacco di gente che veniva a vedere questa roba qua e quindi abbiamo consumato. Dopodiché abbiamo cominciato a utilizzarlo per fare le registrazioni e in quel periodo, o comunque poco dopo, cominciavano a far vedere sempre gli Star Trek alle 3 di notte, ad orari allucinanti, e quel videoregistratore, imparandolo a programmare per registrare, cominciava a aver registrati le tue cose che venivano fatte di notte. Non so perché gli Star Trek li facevano alle 3 di notte, in certe temporie del... perché li guardavamo io e te praticamente, quello li guardavamo in due e quindi eravamo in tre. E non lo so, allora io lo utilizzavo in particolar modo per registrare quelle trasmissioni che comunque non avrei potuto vedere, per poi rivederle dopo, per poi vederci anche poi e per poi passare al momento pirateria tra virgolette, no? Cioè, copiare i film, cominciare a fare. Quando poi i videoregistratori sono cominciati poi a costare un po' meno e poterne avere due, oppure arrivava l'amico con il suo videoregistratore e doppiavamo le cose, abbiamo cominciato a fare, tutti l'abbiamo fatto, la pirateria, voglio dire, sì, pirateria, sì. Che poi era relativa. Tanto è tutto prescritto, no? Che era pirateria tradizionale, quella da casa, quella dove si copiavi le cose per te, per l'amico, come quella della musica. Sì, sì. In realtà non era come quella del videogioco, che era un'altra cosa. Diciamo che si era arrivati a fare la realizzazione delle videocassette coi film tagliando le pubblicità, nel senso che appena arrivava la pubblicità, pausa, e poi riprendevi quando riprendevi. Addirittura Davide, c'erano i videoregistratori che avevano la funzione, che per me non ha mai funzionato, esatto. Che aveva la funzione che in automatico stoppava quando c'era la pubblicità, perché in teoria l'emittente doveva mandare un segnale che avvisava che c'era la pubblicità. Non in Italia. Gli Show View, mi sembra si chiamasse. Sì, esatto. No, adesso... era una roba che funzionava all'estero, perché era una cosa quasi obbligatoria, se non sbaglio, sicuramente negli Stati Uniti, in Giappone, posti così. In Italia non se l'è mai cagato nessuno, e quindi non funzionava il sistema e dovevi fartelo tu a manina. Però all'inizio si faceva, ti impegnavi, stavi lì e ti facevi vedevi il film in TV, lo registravi per poi accumulare queste registrazioni di tutti i film che facevano vedere in TV, togliendo le pubblicità, facevi le copertine, ci scrivevi tutto il nome, le archiviavi e ti facevi la tua collezione di film per poi non rivederli mai più, perché mai più tu riempivi il cassetto tutto, ma poi non li guardavi mai più. Però detto, c'era quel gusto di fare questa cosa perché potevi farla, solo semplicemente perché potevi farla, e ti sentivi poi io perdevo ore a fare ste robe, tu me lo dicevi oggi in una vocale su Star Trek, hai perso mezza vita a fare le VHS, a fare poi tante altre cose, Simone, no? Tutti noi abbiamo perso degli anni a fare le cose sulle videocassette per poi accumularle e basta. Certo, fondamentalmente. Vabbè, ma in realtà noi accumulavamo tutto, accumulavamo dischetti dell'Amiga, accumulavamo videocassette. Certo. Anche se devo dire, io con le videocassette sono stato più rigoroso. Ho sempre preferito avere. C'era la biblioteca, quella a Via delle Botteghe Oscure sotto il Partito Comunista, che praticamente c'aveva ovviamente tutta la parte ovviamente della libreria, c'era tutta una parte di cinematografia molto, molto selezionata, molto particolare, dove io andavo a comprare i film praticamente una volta a settimana con i soldi della paghetta, andavo lì e mi compravo la mia videocassetta del film, magari parlavo col tizio dentro e lui mi consigliava, io mi guardavo questi film, insomma, e E devo dire che sulle videocassette sono sempre stato molto rigoroso, anche perché il dischetto dell'Amiga, quando ce n'avevi 2500, te ne accorgevi relativamente, e le videocassette c'avevano una certa corposità, diciamo, sì, così, no? Sì. E, no. Prego? Ingombranti, erano abbastanza ingombranti, sì, sì. No, ma infatti, no, stavo leggendo quello che mi stava scrivendo Luca S sulla chat invece di Runtime su Telegram. Lui diceva che anche in Germania e UK programmavi dal televideo direttamente. Vabbè, ma diciamo che da noi certe tecnologie non è che non c'erano, cioè non è che noi eravamo minorati rispetto, è proprio che non le applicavamo. Cioè, nel senso, non ce ne... ha ragione. Che... E lo show view in realtà era quello per programmare il videoregistratore a registrare un determinato programma con un codicino di, esatto, al posto che impostare il timer, accendi, spegni, impostavo il numero tipo 1597, sì, e lui si programmava. Sì, io non ho mai programmato il timer. No, no, io guarda, noi sì, con diversi statori, però spesso partivano in realtà in ritardo, magari rispetto all'orario, non era rigoroso, e quindi poi in realtà magari o lo mandava in ritardo il codice, quindi a volte comunque non registrava giusto, cioè da noi era proprio un problema proprio atavico. Sì, era comunque il sistema, perché comunque tutti i videoregistratori, e soprattutto per i miei genitori, le persone un po' più meno tecnologiche, programmare un timer che si tratta di inserire un orario di inizio, un orario di fine, era sempre un enigma, cioè bisognava leggere il manuale, cercare di capire, sì, come si programmava sto coso, e mia madre non sarebbe mai riuscita, mio padre poco meno, chiamava sempre me, programmami sto coso, ed effetti dovevi stare largo pratico, anche sì, sì, non era molto mezz'ora pratico, mezz'ora prima, mezz'ora dopo dovevi andare, show view, sì, sì, ma io non ho mai programmato. Io non l'ho mai programmato il videoregistratore, proprio, mi sono sempre... A parte che io non ho mai registrato i film, invece Deborah, cioè, lei quando per esempio registrava stava lì, stoppa, riprendi, stoppa, riprendi, con la pubblicità per evitare. Io scopendo Simone aveva il videoregistratore che segnava sempre 000 che l'ampeggiava. Esatto, l'ampeggiava, eri uno di quelli con lo zero che l'ampeggiava. Sì, sì, neanche lo mettevo. Quando andavo a casa di amici che vedevo quello, mi veniva la rabbia, andavo lì a programmargli l'orario. Anche noi ci avevamo sempre programmato, sì, sì, mio babbo era fissato sempre. No, no, io penso che non hai mai impostato neanche l'orario sul videoregistratore. Appunto, cioè, tu hai 00 che la peggiava. No, no, mi ricordo, mi ricordo un racconto, cioè una cosa, un ricordo molto che mi piace tenere, anche se poi alla fine era un po' strano come racconto, perché poi uno ci fa pure una brutta figura, no? Però io nel 1987 era l'epoca dell'Italia di Azeglio Vicini, della nazionale italiana di calcio di Azeglio Vicini, che stava facendo una, diciamo, un gruppo di qualificazione agli europei incredibile, stava vincendo tutte le squadre, una squadra fortissima, se ve la ricordate, quella era una squadra veramente forte, che poi è la squadra che arrivò seconda ai mondiali Italia 90. Prima di Italia 90, nell'88 sarebbero stati gli europei. Io nel 1987, il 6 febbraio, il giorno del mio compleanno, partì per la Nuova Zelanda e sono stato 3 mesi in Nuova Zelanda, e c'erano delle partite di qualificazione che io ci tenevo, perché io la seguivo tantissimo quella. Mi registravo tutte quante le partite, che erano forse una delle poche cose che io registravo, oltre alle cose che facevo io, quindi con la videocamera andare in giro, fare interviste o fare cortometraggi o cose del genere. E mi ricordo che mi telefonò mio padre praticamente mentre ero in Nuova Zelanda, mi disse: ah, come va? Dice: papà, però mi raccomando, c'è Italia-Portogallo, registrami Italia-Portogallo, ci tengo, perché così quando torno me le guardo. Va bene, Italia-Portogallo. Gli ho detto: guarda papà, che perché io c'avevo il mio videoregistratore, no? Lui c'aveva il suo, cioè ognuno c'aveva, a casa nostra ognuno c'aveva il suo, insomma. Okay. E praticamente gli ho detto: guarda papà, che non devi fare niente, cioè la cassetta è esattamente nel punto dove deve essere, devi solo accendere e spingere REC, non devi fare altro. Perché? Perché io col Commodore 64 avevo fatto praticamente tutta una serie di titoli, praticamente, no? Ah, qualificazione degli europei, Italia-Portogallo, cioè l'avevo preparata sta cosa, gliel'avevo lasciata lì, detto: devi fare solo questo. Lui ovviamente smanettò, perché e subito sotto la sigla c'era un pornazzo. E praticamente niente, c'era questa cosa così, e lui poi lo disse a mia madre, che poi vabbè me lo disse a me, insomma, è tutta una storia così, però ci stava, no? Ci stava, anche perché chi non ha vissuto a Roma non sa che all'epoca di notte nei canali televisivi facevano questi film porno che venivano croppati, cioè praticamente facevano in tutta Italia. Ah sì sì, no vabbè, ok ok, comunque, e quindi tu praticamente te li registravi, era insomma pornazza gratis, no, quando sei ragazzino c'hai un po' l'ormone scatenato e niente, vabbè, mi ricordo questa cosa che mi divertì moltissimo perché insomma me, alla fine dopo quando tornò poi io ci risi anche sopra, perché io ho detto, t'avevo detto che devi stare lì, devi solo spingere, che non devi fare nient'altro. Queste sono le cose che succedono sempre quando non devono succedere, ma è... I tuoi genitori come i miei, che non erano per niente pratici, cioè chiamavano sempre me per fare le cose perché non riuscivano mai neanche a accendere lo videoregistratore. Anche miei. Io invece ho preso il videoregistratore VHS molto presto, quasi, non dico appena usciti, ma abbastanza presto. Ero uno dei pochi ad averlo tra gli amici, eccetera, in casa. Mi ricordo che costava più di 1.000.000 lire il videoregistratore all'epoca, quindi era una cosa abbastanza costosa. E ci appassionammo subito al discorso, io e mio fratello, perché io e mio fratello abbiamo 3 anni di differenza. Io ero già molto appassionato di informatica, eccetera, lui meno, lui giocava più che altro, e mentre io programmavo anche, facevo i videogiochi, non so, virgola, no? Programmavo già a 12 anni, eccetera. Invece con il videoregistratore fu più lui ad appassionarsi di me, e soprattutto poi, vabbè, ci appassionammo tutte e due al discorso di fare qualcosa anche con il video. Infatti, per l'esame di terza media, lui si fece regalare la videocamera, che poi usavamo tutte e due. Una delle prime videocamere che mio padre ci comprò usata, perché non voleva, diciamo, eravamo piccoli, quindi non è che voleva prenderci una cosa, già costava un sacco di soldi. La comprò usata, una, quelle con le VHS intere, era una videocamera, ma con non con le VHSC che arrivavano dopo, con le VHS. Sì, quelle, sì, sì, anch'io la prima videocamera VHS c'avevo quella grossa. Con... Sì, sì, era a spalla. Che l'ho sempre trovate comode proprio perché era una spalla, cioè per me le telecamere a spalla sono sempre state migliori, cioè in generale proprio. Era bella grossa, insomma, bella pesante. E lì iniziamo a fare una produzione di video infinita, ci inventavamo, facevamo lo script, la sceneggiatura, ci inventavamo le cose, abbiamo fatto, poi coinvolgevamo tutti gli amici, tutta la cerchia di amici, abbiamo fatto Telemango, le videocassette ce l'ho ancora, con tutte le trasmissioni, abbiamo fatto Telemango. Ma mi sa che ci facciamo un bel lavoro per YouTube con te, faremo un canale apposito. La presa in giro di Dallas, che si chiamava Pallas. E poi cioè, fino ad arrivare al nostro capolavoro che facciamo nel 1988, praticamente un cortometraggio intero dall'inizio alla fine, dove, che si chiamava I casi dell'ispettore Ulisse, che era preso dai casi dell'ispettore Ulisse della settimana enigmistica, ma preso in giro praticamente. E I casi dell'ispettore Ulisse è stato proprio un vero e proprio cortometraggio, fatto con tutti i crismi, cui facemmo anche gli effetti speciali con l'Amiga, avevo l'Amiga col Genlock, 2 videoregistratori e la telecamera, quindi abbiamo fatto anche tutto il montaggio video, la sigla iniziale fatta con Amiga, con le scritte che andavano in parallelo, tipo Star Wars, no? Esatto. Che poi tu hai fatto grafica televisiva pure, no? Il nostro culmine, no, delle produzioni. Certo, poi certo. Io vabbè continuai nell'informatica, mentre mio fratello continuò con questa passione, infatti infatti tuo fratello è un genio, è un genio, diciamo già. È diventato, si è lavorato in architettura, però voleva fare il regista, ha fatto dei documentari anche che hanno partecipato a dei concorsi, e poi adesso è professore di montaggio video alla Luchino Visconti di Milano, quindi proprio è diventato il suo lavoro, il suo ambiente. E non ha sfondato come regista, però diciamo che gli sarebbe piaciuto diventare, però adesso fa il professore, quindi comunque è sempre nell'ambiente. E quindi per noi la videocassetta, il videoregistratore fu qualcosa di veramente vissuto anche da un punto di vista dell'utilizzo, non solo nel registrare le serie TV come faceva Davide, che anch'io mettevo il timer per registrarmi Star Trek in LP alle 2 di notte, perché no. Cioè già il VHS c'aveva 2 linee di risoluzione, ci andavi pure in LP e era fine, insomma. Ho capito, ma eravamo abituati a, fai conto che sempre per la pirateria quella di casa, noi quando si affittava una videocassetta all'inizio, come giustamente ha detto Davide, non è che avevi due videoregistratori, no? E quindi noi cosa facevamo per copiare le videocassette? Usavo all'inizio, e non avevamo neanche la telecamera, ma avevamo un vicino di casa che ce l'aveva, però era una video 8. No? Abbiamo parlato dello standard video 8? No, abbiamo parlato, in effetti. Video 8 è stato l'altro grande standard. Sì, che ha avuto a livello di videocamere di più, in effetti. È vero, esatto. Hai ragione. Il video 8 era nelle videocamere, quindi io cosa facevo? Mettevo la videocassetta originale nel videoregistratore. Dal videoregistratore la registravo sul video 8 della Sony, dopodiché toglievo la videocassetta, mettevo la VHS vuota e dal video 8 la ripassavo sulla VHS. Ah, poi era tutto analogico, tu immaginati il risultato finale del doppio passaggio, cosa saltava fuori. Mamma mia, proprio la degradazione genetica. Di aver copiato la videocassetta. Il film durava 2 ore, ci volevano 4-5 ore per copiarlo. Esatto. Però la qualità poi alla fine era intima, la qualità ci ha rotto il cazzo, diciamoci la verità. Perdita analogica, non è come la copia digitale che era uguale, no? La qualità era sempre peggio ogni passaggio. Per fare un'altra differenziazione, poi scusa Davide, poi passo a te e anche a Federico, che sì, magari raccontate anche i vostri aneddoti. Per fare una differenziazione, oggi per fare del montaggio video ovviamente si utilizzano... Ti lascio 10 minuti, se riesco rientro dopo, adesso devo andare a prendere mia figlia, okay. Quindi poi ci sentiamo dopo. Ciao bello, ciao. Grazie comunque di esserci stato, eventualmente ci vediamo dopo, ciao. Dicevo che oggi ci sono i software di editing video non lineare, dove praticamente negli anni, diciamo da quando ho iniziato io, che c'erano le prime schede di acquisizione, stiamo parlando sempre insomma della fine degli anni 90, no? Cioè comunque quelle cose gigantesche che mettevi dentro il computer e che costavano un fracco di soldi, i primi Premiere 4, no? Oggi l'evoluzione ha portato ad avere dei software veramente incredibili, insomma, che riescono tutti a essersi standardizzati ad alti livelli di professionalità, ma sì. Come vi ho già raccontato, con la pellicola, quindi con la moviola, facevi un certo tipo di discorso che era proprio tagli e cuci, proprio con lo scotch, mentre che con l'analogico, quindi il nastro, facevi un altro tipo di montaggio che era non era il tagli e cuci chiaramente, ma era altrettanto complesso, perché difficilmente riuscivi a fare un editing anche fatto proprio totalmente in maniera analogica se non avevi almeno 2 o 3 videoregistratori in parallelo, perché tu comunque avevi questi strumenti con i quali dicevi dove attaccare, dove staccare determinati momenti, e ovviamente facevi quello che era l'editing. Vai Federico. Vai Federico. No, io invece, allora, diciamo, come esperienza casalinga, sono nato col videoregistratore in casa, quindi mi ricordo i primissimi film, appunto, sono stati Basil, l'Investigatopo e Labyrinth, quindi insomma siamo sempre, ma ero proprio piccolissimo, avevo avuto 2-3 anni, però me li ricordo, insomma, ed erano entrambi copiati sicuramente, se non mi ricordo male. E poi però, diciamo, anche noi tendevamo a comprarle quando possibile, eccetera. Mio babbo poi mi ha insegnato effettivamente a utilizzare le funzioni del videoregistratore, tant'è che mi ricordo da piccolino comunque, però diciamo sempre con il suo aiuto, registravo con qualche cartone animato, ma ad esempio il cartone animato di Scuola di Polizia, io me lo ricordo insomma ancora bene, e cose di questo tipo, perché effettivamente insomma cercava di farmi approcciare per bene alla, diciamo, al mondo della tecnologia, e quindi questo, diciamo, è una cosa per cui l'ho sempre ringraziato, perché comunque insomma mi ha sempre fatto sia vedere che provare i vari strumenti, e mi ha fatto vedere anche le stazioni di montaggio su cui faceva appunto i montaggi lui, e niente di particolare, lui aveva appunto 2 registratori e il come si chiama, il tipo una plancia essenzialmente dove faceva il tracking, controllava le varie cose. Io quella poi non l'ho mai usata, quindi quella alzo le mani, però appunto sì, comunque nel senso, nel tempo poi io per esempio, diciamo, essendo appassionato di videogiochi e tutto, mi piaceva moltissimo però le parti filmate, come esempio le introduzioni filmate, no? Dei videogiochi degli anni 90, per cui mi ero messo a registrarle su videocassetta, quelle mi piacevano di più, dei giochi su console, eccetera. Per cui, insomma, ma lo sai che sta cosa la facevo pure io, incredibile comunque. Ah, vedi? Sì, sì, assolutamente. Vedi? Le introduzioni, le sigle, le grafiche, comunque sì, è vero. E beh, vabbè, d'altronde in particolare dall'Amiga in poi comunque questa cosa ha assunto comunque una sua dimensione. Io mi ricordo Defender of the Crown, cioè ho fatto il film poi fondamentalmente. Sì, sì, è vero, questa cosa, vedi, cioè comune, una bella esperienza, sì. Questa, un'altra cosa, sì, abbastanza, no, particolare. Esatto. E tra l'altro, la telecamera stasera mi fa gli scherzi, vediamo se, ecco, ok, stasera c'ha un po' di, la webcam fa un po' il buono e il cattivo tempo. No, dicevo, tra l'altro il mio primo cortometraggio da ragazzino, avevo 16 anni poco più, l'ho girato in I-Band 8, era il formato, diciamo, sì. I-8, nel senso, diciamo, quello nato dopo il video 8, eccetera, l'ho girato lì, e lì per esempio io l'ho fatto tutto, i vari tagli li facevo a mano, mandando avanti e indietro sulla telecamera, fermando al punto giusto e ripartendo di lì con il chuck dopo, no? Sperando che andasse bene, quindi era un po' chiaramente fatto alla buona, però effettivamente, insomma, ci ho provato e i primi corti li ho fatti lì, ecco. C'è Walter in chat, scusa Davide, poi ti lascio la parola. Lui dice che le VHSC per esempio non c'avevano la stabilizzazione. Io penso che se parli della stabilizzazione ottica in generale, penso che fino ai tempi più moderni non ce l'aveva nessuno, insomma, ecco. C'era poco, diciamo che il vantaggio di una telecamera grossa era comunque l'appoggio su spalla che ti aiutava proprio a tenere ferma, più solida la presa, sì, sì. No, questo è sempre stato un po' un problema. Poi sicuramente con le telecamere più moderne, con l'arrivo delle handicam e via dicendo, sicuramente poi iniziavano le prime stabilizzazioni ottiche o elettroniche, però fino a che non sono arrivate le steadicam, diciamo che il concetto di stabilizzazione, ma lo vedi anche nel cinema, insomma, tantissime scene abbastanza, come posso dire, traballose. Nel cinema di oggi sono anche volute, direi. Oggi le cercano, il micromosso è una tecnica di ripresa, però allora era... Non piace, peraltro. No, dipende dal contesto, se è ossessivo mi rompi il cazzo, insomma, diciamo così. Se c'ha un contesto, c'ha un senso, ci può anche stare, mentre che allora era per forza di cose, perché tu comunque quando stavi con una cinepresa, voi considerate anche il contesto di una cinepresa che era comunque un oggetto grosso con un'ottica attaccata che magari era un 50 mm, tanto per fare un esempio, e quindi già c'avevi un certo tipo di piano. Quindi di profondità, e con questa cosa che si muoveva tutto, lì era tutto amplificato, chiaramente, insomma, però vabbè, no, ma poi pesavano quelle professionali anche 30-40 kg minimo, quindi sì, voglio dire, sì, anche portarle a giro non era proprio una cosa facilissima, infatti, sì. E poi ricordo che si vedeva nelle trasmissioni, erano magari quelle professionali, però c'era sempre dietro l'omino con la batteria sulla spalla, con quello che riprendeva, perché comunque erano anche apparecchi che consumavano. Sì. Ma infatti riraccontiamo una cosa interessante, l'abbiamo già raccontata in quando eravamo futuro, che nelle vecchie produzioni Rai, quando c'era ancora il bianco e nero, se voi vi ricordate, gli sceneggiati erano in video le parti interne ed erano in pellicola le parti esterne, per ragioni tecniche proprio, perché comunque non c'era abbastanza, diciamo, tecnologia per poter alimentare esternamente certe determinate telecamere, che erano poi tra l'altro molto delicate, molto particolari, e quindi si utilizzava la cinepresa, che era molto più smart, magari con 16 mm e si lavorava con quello, insomma. Io me ne sono accorto guardando Il segno del comando, era una si vede la differenza, e effettivamente tra interni e esterni c'è una differenza completa. Sì, ma questa l'hanno fatta in un altro modo, esatto. Ok, vedi. Sì, sì, no. Ma infatti infatti si nota questo, per esempio, questo dettaglio, vabbè. Beh, no, se lo vai a rivedere oggi te ne rendi conto, cioè, sì, oggi con l'esperienza visiva che c'hai, che c'era questa spiegazione nel fatto che quando era in esterna giravano in pellicola, certo. Io l'avrei detto per questioni ottiche, per questioni si vedeva meglio, funzionava meglio, invece no, era proprio un problema energetico, energetico e anche di complessità. Tu devi considerare che negli anni 50 una telecamera era un catafalco, cioè si voleva un camion con il generatore, era ingestibile all'esterno, cioè quelle erano fatte proprio per essere posizionate a studio e avevano bisogno di un certo tipo di illuminazione, perché come, cioè, voi immaginate oggi noi facciamo il raffronto sul, che ne so, una fotocamera bridge di oggi, anche professionale, che costa sui 1.500-1.600 euro, che ha un sensore da un pollice, che un pollice significa il minimo indispensabile per poter avere un po' di profondità di campo, di gioco di sfogato e via dicendo. Voi immaginate di che cosa stavamo parlando, insomma, in un'epoca di 50 anni fa, no? Cioè, nel senso, proprio tecnologicamente quel tipo di discorso era molto più complesso, ma si vedeva nella qualità del video, nella persistenza, nei contorni dell'immagine, e poi ovviamente l'immagine in pellicola era sempre stata superiore, però la pellicola, ecco, era comunque più costosa e quindi veniva utilizzata soltanto per gli esterni perché era inevitabile, ecco, diciamo solo questo. Però vabbè, ci sta, diciamo che io le telecamere ce l'ho sempre avute, mi sono sempre divertito e ho imparato, diciamo, quelle che sono le tecniche di montaggio anche da solo, anche il pensiero nel montaggio, cioè riprendere con una sorta di montaggio in camera, no? Cosa che un tempo fa si faceva, cioè nel senso era una oggi tu riprendi tutto a rotta di collo, perché tanto poi quando vai a casa puoi fare qualsiasi cosa col materiale che tu ottieni. Una volta, diciamo, era un po' più rischioso perché a parte che magari cioè, avevi solo due o tre videocassette dietro e non è che potevi fare tutto quello che potevi, sì, insomma, che pensavi, una sola batteria, cioè, sì, poi ecco il discorso delle batterie era un discorso abbastanza particolare. Io per esempio nella mia VHS non c'era, si caricava ma non c'era la batteria di ricambio, cioè, quindi questo era un po'. Oggi per esempio io con la GoPro ho tre batterie, ad esempio solo con la GoPro, cioè, nel senso che quindi, però sono sempre scariche quando le ha che sì, è vero questo è vero. Dice, cacchio, non le ho caricate. Esatto. Ecco, per esempio, una cosa carina che mi piaceva invece raccontarvi, che per esempio nel corto un episodio di un film a episodi che abbiamo fatto sul tema della violenza di genere, quello diciamo con la regia mia, mi sono impuntato perché ci dovesse delle sequenze viste diciamo su un vecchio televisore e tutto, e anche poi diciamo viste proprio in primo piano, fatte su cassette dell'epoca. Io l'ho effettivamente, nonostante gli altri del team mi abbiano dato di insomma mi abbiano chiamato in tutti i modi, mi sono impuntato per girarle proprio in video 8, e le ho girate in video 8 ed era molto divertente passare, non so, dalle riprese con una fotocamera, diciamo da come esempio la Sony Alpha 7 abbiamo usato eccetera, alla video 8, certo. Diciamo anche proprio in fase di montaggio è stato molto divertente, è stata una cosa veramente particolare, nel senso poi si girava anche con le altre per sicurezza, cioè non si sa mai che succede, però effettivamente poi le ho usate tutte e sono stato molto contento, ha dato il tocco quello interessante, vedi? Beh, qui il nostro amico ci dice, si vede prevalentemente sul dottor Who, il vecchio dottor Who della BBC, ma in realtà guarda, se tu prendi A come Andromeda, ma tutti gli sceneggiati Rai dell'epoca, sì. Cioè si vede sempre questa cosa, era inevitabile, non c'erano soluzioni alternative, fino a che ovviamente non sono arrivate le telecamere anche da sé. Cioè, voi considerate che gli eventi sportivi c'avevano soltanto una telecamera, scusate, diciamo poi i termini appropriati, avevano solo una telecamera all'inizio, proprio perché era un impegno, cioè prendere questo oggetto, immobilizzarlo in quella condizione con tutto il rischio degli annessi e connessi, la pioggia e cose, e poi dopo ovviamente quando tutto è cambiato, le tecnologie sono cambiate, i costi sono cambiati, chiaramente adesso vai a vedere una partita di pallone, c'è già 42 telecamere, sì. Esatto. Sì. I droni di meno, perché avevano provato all'inizio, però allora telecamera col filo, quello che c'è sopra il filo a croce, sì, esatto, sì. Esatto. Anche se a me comunque una cosa che svolazza sopra un campo di pallone mi fa sempre impressione, perché non so se vi ricordate qualche anno fa una partita di Supercoppa Italiana che fu giocata a Pechino, che vicino alla porta di Buffon cadde sto drone, perché magari è... Ah, sì. Insomma, ragazzi, non si scherza con sta roba. È una gara di sci dove si vede il sciatore. Sì, anche se quello non si è mai capitato. Se... dopo, sì. Alle sue spalle. Sì, anche se io non ho mai capito se quello era vero o falso, perché sembrava un mezzo fake, devo dire la verità. Sì. Però ci poteva anche stare, insomma. Comunque, vabbè, dai, ragazzi, questo è un po'... un excursus per capire quello che erano le differenze erano che quello era l'oggetto che tu compravi, ti sarebbe dovuto durare per anni e sicuramente durava per anni, e chiaramente quello che tu utilizzavi, gli strumenti che utilizzavi, le videocassette, spesso e volentieri, a meno che non avevi memorizzato qualcosa di fondamentale, li andavi anche a riutilizzare perché i costi erano sempre insomma quello che erano. Poi io nel periodo in cui ho iniziato a fare il videomaker un po' più seriamente, mi ricordo che facevamo le videocassette, consegnavamo al cliente le videocassette con tanto di copertina sul coso, l'involucro, sì. Insomma, quindi alla fine piano piano il tutto è migliorato fino a che non si è arrivato poi ai DVD e Blu-ray, e ovviamente oggi non si lavora neanche più sui supporti, perché è questa la cosa che fa forse più effetto di tutti, il fatto di non utilizzare più i supporti, ecco, cioè questo oggi è diventato tutto liquido, tutto... No. Io ancora qualcosina faccio, ma sono tutte piccole cose. Quando mi chiedo magari adesso cose tipo delle comunioni, per dire, a volte sono andato, ho fatto, però effettivamente mi fa quasi strano farlo, è l'opposto. Dici, ma aspetta, devo fare il DVD, un po' strano, capito? Cioè, ormai proprio fa strano. Però quello che vogliamo dire, raccontare in questa parte finale di trasmissione è anche il fatto che e questo l'avete capito, ve l'abbiamo raccontato mille volte, insomma, da fino agli anni 2000, diciamo così, forse poi piano piano questa cosa si è un po' assottigliata, però tutti i grandi competitor tecnologici e ingegneristici sviluppavano, diciamo, degli strumenti e contemporaneamente, nello stesso periodo e nello stesso modo, in altri posti del mondo altri sviluppavano la stessa cosa a loro modo. Quindi diciamo che prima che nascessero, diciamo, le standardizzazioni, una sorta di universalizzazione dei vari formati, delle varie situazioni, ognuno metteva la sua, insomma, e questo è stato anche un problema da un certo punto di vista, ma è stato anche affascinante perché ci ha permesso di vedere cose che oggi magari difficilmente un ragazzo vedrebbe. Quindi un tentativo di esplorare una soluzione in maniera così esotica come possono essere alcuni formati di cui adesso andiamo a parlare, ma in particolare c'è anche il fatto che questo tipo di situazione alla fine oggi si è concretizzata in quello che poi per esempio fa Federico, no? Cioè quello del collezionismo di strumentazioni che oggi sono particolari, insomma, no? Sì. Per esempio sto coso qua, che cosa sarebbe? Ecco, questo qua dovrebbe essere il VCR, perché in realtà qualcuno pensa in inglese che VCR sia in realtà il videoregistratore. Il VCR, in realtà, certo. No, è un formato inventato dalla Philips praticamente per registrare anche questo, ma questo è del 1972, per cui si parla di un formato proprio dei primissimi tempi. E il VCR è proprio una cosa, è proprio uno dei pionieri di questa, diciamo, di questo tipo di tecnologie di videoregistrazione, e purtroppo è sempre rimasto molto molto diciamo sconosciuto rispetto agli altri, anche se poi hanno fatto poi il diciamo Philips poi ha cercato di fare il Super Video, si chiamava SVR, e il VCR LP. Questi sono stati, diciamo, gli esperimenti che hanno fatto loro prima di poi insomma di sia di darsi al discorso videocassette, ma soprattutto di fare quel formato che abbiamo visto prima, è stato il video 2000. E questo è proprio l'antenato del video 2000. Questo qua si vedeva nei film anni 70 ogni tanto, quando volevano far vedere una videoregistrazione, si vedeva sempre sto affare qua, che io lo vedevo nei film, proprio con quella forma inclinata, un grosso era grossissimo, sì. Era una roba gigantesca, e lo si vede anche nei film di Colombo, nei telefilm di Colombo, sì. Si vede proprio, è proprio quell'affare lì. Esatto. Invece qui Sony va un po' più sul pro. Esatto, diciamo. Qui Sony invece nel 71 aveva inventato questo altro formato che è l'Umatic, che loro avevano cercato di commercializzare anche da un punto di vista consumer, ma senza successo, e quindi si erano buttati nel mercato professionale, che poi anche quello dove magari anche il Betamax e poi il Betacam hanno avuto più risonanza, e anche qui uguale l'Umatic in ambito professionale è stato un oggetto utilizzato per tantissimo tempo. Io ho anche degli amici, aspettate, mi sentite? Sì, spero di sentire. Sì, come no. Perché la webcam ogni tanto stasera va. No, ti dicevo, per esempio io ho degli amici, insomma, abbastanza cresciutelli, che hanno girato i loro primi corti, diciamo, eccetera, e poi li hanno riversati su questo formato qui, per dire. Per cui, insomma, era una cosa che era molto comunque seria e professionale, ovviamente, sì. Non era pensata però per il grande pubblico. Qua posso dire una cosa io velocemente. Io sono riuscito ad ottenere ai tempi dell'Amiga, I tempi della Amiga, leggendo sulle riviste, no, dicevano: se volete fare le animazioni dovete avere un video registratore per fare il passo 1, generare il rendering dell'immagine, registrare il fotogramma, fare il rendering dell'immagine, registrare il fotogramma e poi vi vedete filmato. Io lavoravo in negozio di elettronica e ogni tanto veniva qualcuno di Canale 5, robe così, detto, gli parlavo di Steumatic, e lui diceva: ma sono roba mega galattica, eccetera. Finché un giorno arrivò un tizio che me ne portò uno portatile, che è il solito coso da tracolla da 20.000 frontali, sì, con l'interfaccia seriale RS232 e lo collegai all'Amiga, e alla fine, dopo un tribolamento della Madonna, sono riuscito finalmente a fare un'animazione utilizzando il passo 1 di The Columati, che mi sembrava di essere sulla Luna, di avere veramente il futuro nelle mani. In realtà avevo in mano, scopro oggi che avevo in mano una tecnologia del 1971. tra l'altro questo tuo racconto di adesso mi ha fatto venire in mente un tempo in cui io comprai la prima Movie Machine e andai direttamente alla FAST a Roma e comprai la Movie Machine, insomma, quella da 2 milioni di lire. Allora, insomma, era bella costosa, però nel senso era comunque una sorta di entry level, poi fondamentalmente era un poco più che un giocattolo, e loro mi fecero vedere tutte le strumentazioni, mi fecero fare proprio il tour delle cose che c'avevano, e praticamente loro quello che tu facevi su Premiere con i tempi di renderizzazione, che il computer si metteva lì, ci metteva a fare una transizione, manco ve lo dico. E lo facevano in praticamente fotogramma per fotogramma su un nastro direttamente. C'erano degli hardware che praticamente tu gli dicevi: guarda, qui tra questo segmento e quest'altro segmento mettimi una pagina che sfoglia, il famoso effetto classico che si metteva negli anni 80, piaceva tantissimo. Ecco, praticamente lui, invece di renderizzarlo, diciamo, in macchina e poi dopo stampava ogni fotogramma, ogni tot di secondi che aveva elaborato il fotogramma, prendeva il fotogramma e lo stampava sul nastro, e quindi praticamente c'era questo nastro che stava tutto il tempo a fare stam stam stam stam, è tipo il passo 1, perché il passo 1 è proprio una tecnica di ripresa anche, ok, cioè non è soltanto aveva la possibilità di fare la registrazione di un fotogramma. C'era proprio una porta seriale, tu gli mandavi il comando, li registrava per un 25esimo di secondo, non so, e memorizzava quella roba lì, e poi te lo vedevi senza avere flickering, robe strane, registrava bene e li metteva in sequenza senza avere disturbi strani. Se lo facevi tu con un VHS, mettevi in pausa, registravi il fotogramma, mollavi la pausa, eccetera, veniva tutta uno schifo inguardabile. ci avevo provato a mano. E qui poi questo qui non sapevo proprio minimamente. Questo ragazzi è una chicca incredibile. Questo si chiama Cart Revision, è una cosa scoperto molto di recente anch'io. E praticamente in realtà esisteva questo formato in America, però ci volevano dei televisori appositi. Anche questo era a nastro magnetico, ma erano praticamente i primi film preregistrati, quindi film che con queste specie di cartucce si inserivano in questi televisori appositi e ti guardavi il film. È una roba fantascientifica del 72, ma non ha mai lasciato l'America. Io ne ho trovati anche diversi in vendita online, eccetera, ma ovviamente i televisori, vi immaginate quanti ce ne siano oggi al giro di questi week, per cui è praticamente impossibile, penso, se non per un museo, riuscire a trovarne uno di televisore. Però i film si trovano, quindi qualche volta riuscirò a averne uno o due. Queste sono proprio chicche particolari. Poi in realtà, se andate su YouTube, sul canale di Archeologia Informatica, e andate nelle playlist, c'è una playlist che si chiama Non Solo Informatica, una cosa del genere, e c'è praticamente un'intervista che Danilo Giardino ha fatto proprio a Federico quando a Firenze Vintage Beat, dove lui ha portato tantissimi di questi formati, di questi strumenti particolari, dove il più normale, tra virgolette, era questo, cioè nel senso, uno dice: ma che robe, va sicuro che questo è il più vedi anche Davide, vedi, a parte anch'io, vedi, si fa questo ragazzi è il motivo per cui io diciamo sono diventato appassionato di questo, diciamo, dei vari formati video e tutto, cioè i Laserdisc. Per me Laserdisc è stata una scoperta incredibile, cioè è un formato che all'epoca ha vissuto in realtà per tanto tempo, perché l'ha inventato Magnavox, Philips Magnavox, come Disco Vision nel 78. Infatti il primo film uscito è Lo Squalo di Spielberg in America, ovviamente. Però poi è un formato che per tanti anni ha avuto difficoltà a trovare una propria identità. Poi con Pioneer, quando Pioneer ha, diciamo, rilevato il progetto, effettivamente ha trovato la sua identità, ed è stato veramente veramente interessante e molto avanzato come sistema, però costava delle cifre improponibili per l'utente medio, insomma. No, intanto diciamo che il disco è, come vedete, c'è il raffronto rispetto, sì, a un CD normale. Il disco era quattro volte tanto, è un LP, è come un long play, sì, esatto, sì, sì. E ricordiamo a tutti che, nonostante l'aspetto estremamente futuristico che fa immaginare che sia una registrazione digitale, invece è una registrazione analogica. Esatto. Però l'audio, allora la differenza nell'audio c'era, incredibile, cioè, no, dico, la differenza nell'audio c'era, cioè, veramente notevole. Forse non so tanto nel video, perché è una cosa che l'accoppiamento magnetico è sicuramente molto, si perdeva, cui col laser evidentemente invece tu lo vedevi, si vedeva sempre allo stesso modo. Sì, considerate appunto una videocassetta ha più o meno 240 linee di definizione, oggi in 40, il Laserdisc ne ha 420, poi in realtà dipende molto dai lettori, da come è registrato, c'è tante cose differenti, però effettivamente è. E anche sul Laserdisc c'è stato tante innovazioni, perché siamo partiti appunto con l'audio analogico mono, come anche nelle videocassette, nel Betamax, nel Video 2000 e tutto. Poi siamo arrivati allo stereo, poi addirittura all'audio multicanale, perché il primo formato casalingo a avere audio multicanale, quindi il Dolby Surround eccetera, poi anche il DTS eccetera, è stato proprio il Laserdisc, che poi è stato portato avanti anche per il discorso karaoke. Insomma, ha fatto tantissime innovazioni, e anche ha avuto anche una declinazione HD, perché esiste il Laserdisc a alta definizione uscito solo in Giappone, che io purtroppo non sono ancora riuscito a trovare, perché ha dei costi improponibili, però immagino. Esiste anche quello, per esempio. Cioè, hanno fatto un sacco di cose, solo che era una tecnologia molto costosa, che in Giappone ha, diciamo, si è ritagliata una fetta abbastanza buona, tutto sommato, di mercato, in America abbastanza, da noi pochissimo, in Europa poco, ma in Italia poi veramente poco, insomma. Quindi ahimè, però ci sono tra i 250 270 film usciti in lingua italiana in Italia, quindi dai, qualcosina c'è, qualcosina. No, ma girava, io mi ricordo che c'è stato alle fiere, agli Expo, comunque il fascino dello strumento c'era, e poi magari comunque la gente si è fatta anche molto invaghire da quello, no? Indipendentemente dal fatto che se era o non era qualità. Io poi, ragazzi, tutto quello che ci aveva a che fare con i dischi, laser dischi, CD, avevo sempre, e questa è la cosa che vi ho raccontato quando abbiamo parlato di Dragon Slayer, per me, quando tu mi dicevi che c'era il laser, no? Per me era il laser che faceva le cose, cioè, nel senso, immaginavo sto laser che costruiva le immagini, capito? Cioè, nel senso, un po' come fanno oggi i proiettori a tiro corto, ecco, diciamo, lì c'aveva un senso. Invece noi avevamo questa affascinazione verso una tecnologia che non conoscevamo, che però ci affascinava perché sentivamo i nomi, no? Altisonato, il laser, cioè il laser che fa chissà che il laser è in realtà leggeva, insomma, fondamentalmente. Esatto. Però insomma. Esatto, infatti anche, per esempio, anche i capitoli stessi, no? Come nei DVD o nei Blu-ray moderni, eccetera, i capitoli sono nati poi su Laserdisc, cioè comunque c'erano le cose. Quindi, diciamo, è una struttura, insomma, è un sistema che, per essere del 78, diciamo, nato nel 78, insomma, è stato portato avanti poi fino alla fine degli anni 90. Era il vero precursore del DVD, cioè aveva tutte le cose del DVD, che poi il DVD era portato in un formato più piccolo in digitale, ma fondamentalmente. Quando il primo DVD che è uscito, probabilmente era simile a quanto offriva un Laserdisc, magari un pelo più buona le qualità, ma come dicevamo prima, era in 4/3 i primi DVD. Infatti, per esempio, i Laserdisc anche questi c'erano sia in 4/3 che in letterbox che in widescreen, cioè c'è scritto sopra. Per farvi un esempio, questo per esempio è Zorro, la maschera di Zorro in inglese ovviamente, e anche questo, per esempio, c'è scritto dietro è che è in widescreen, però c'è scritto dietro, se no non, perché altrimenti insomma uno che ne sa, capito? C'è Alessandro VN 1997 che dice 240 linee era per il VHS, in realtà convertito in pixel sarebbe 756x254, poi dopo si corregge 756x245, vabbè. Sì, ma poi io mi ricordo che quando c'avevo le prime schede d'acquisizione, infatti erano quelle risoluzioni, cioè... Sì. No, diciamo che effettivamente se avevi un buon lettore Laserdisc, comunque di buona qualità, e quindi dovevi spendere tantissimo, allora effettivamente insomma un'immagine buona poi ce l'avevi, però al tempo stesso, se ne avevi uno piuttosto scarso, la qualità, anche se magari sul disco era registrato abbastanza bene, poi si vedeva il giusto. Sì. Io lo vedo la differenza, insomma, tra vari lettori. Sì, poi loro fanno riferimento qua in chat al fatto che poi esisteva la versione HD, che vabbè, noi non affrontiamo perché appunto qui abbiamo fatto questa piccola carrellata semplicemente per ricordare il fatto che era un'epoca in cui usciva veramente di tutto, si sperimentava tantissimo. E infatti Federico stesso ci ha fatto vedere in un'altra occasione comunque il fatto che lui aveva anche il vinile con il video, cioè nel senso, come si chiama quel tipo di formato lì, però. È il CED, che il CED, ovvero Capacitance Electronic Disc, era nato, è uno dei sistemi più vecchi in assoluto, perché era nato negli anni 60, ma è uscito solo nell'81, fatto dalla RCA, tra l'altro. E quando è arrivato aveva una definizione simile alla videocassetta, veniva letto da una puntina come i vinili ed era analogico, ma era un formato veramente assurdo, stranissimo, eccetera, e cercarono di commercializzarlo senza fortuna, insomma, in pochi anni è crollato subito, insomma, capito? Per dire, no, e anche loro erano scesi in campo. È anche vero che questi formati qui a ridaglie con la telecamera, ma con la webcam, comunque ti sentiamo. Sì, esatto. È anche vero che questi formati qui, per esempio, si ponevano su una fascia totalmente diversa dalle videocassette, appunto dal Betamax, eccetera, perché qui non potevi registrare, cioè erano solo per riproduzione. Esatto, riproduzione. Ma tu ce l'hai un esemplare di questo? Di cosa? Del CED? A vinile, sì. Sì, ce l'ho. Ho un lettore e una trentina di film. Ce l'ha, e poi c'è questo problema che lui dice che siccome comunque i dischi stanno dentro questo involucro, c'era il problema della polvere. Toccarli. Cioè, quindi praticamente se entrava dalla polvere, poi dopo il problema diventava. Cioè, nel senso... Sì, essenzialmente, allora, sono dischi che te non puoi toccare, quindi se li inserisci, sono una specie di confezione, il lettore se lo mangia e poi dopo te lo restituisce. Anche quelli si possono girare e tutto. Qual è il problema? Se te li tocchi col dito, rimane impresso, quindi non li puoi toccare, questi CED, e quindi è un casino pulirli, perché con la polvere dentro, e poi va sulla puntina, quindi come i vinili ti immagini cosa succede, sono ancora più sensibili, e insomma diciamo non erano molto pratici, ecco, sulla lunga. Però anche quella, sono durati po', esatto. Anche quella era una sperimentazione, insomma. Va bene, sì, ragazzi, noi vi abbiamo raccontato, così insomma cercando di andare verso la chiusura di questo episodio, vi abbiamo raccontato ancora una volta la differenza di un mondo che non era globalizzato, dove la scarsa interconnessione tra le varie realtà permetteva ancora, insomma, differenze anche dal punto di vista della progettazione, dove noi vivevamo ancora la tecnologia come un qualcosa di meraviglioso che ci cadeva addosso e ci portava verso il futuro, quando oggi invece chiaramente è la quotidianità un certo tipo di tecnologia, chiaramente. Quindi il fascino, cioè il cercare di raccontare quest'epoca, non è tanto per fare il solito Amarcord vintage, per dire prima era meglio o roba del genere, questo l'abbiamo spiegato tante volte, non c'è un meglio, non c'è un peggio, ogni generazione ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma è bello comunque vedere proprio la differenza di un'epoca in cui per telefonare dovevi girare una rotella, e oggi magari a un ragazzo gli fa vedere il telefono con la rotella e non riesce magari bene a capire di che cosa si tratta, insomma. Quindi il nostro è un racconto così, fatto anche delle nostre esperienze, in questo caso magari siamo scesi un po' più sul tecnico perché era una puntata particolare, però poi insomma dalla prossima settimana, che dovrebbe ritornare a Carlo, insomma la palla del decidere di che cosa parlare, probabilmente torneremo a parlare dei fumetti e parleremo del fumetto erotico degli anni 70 e 80 italiano, che è un momento abbastanza importante, e quindi state sempre con noi, ritornate qui giovedì prossimo sempre su Twitch o su rantemeradio.it e parleremo ovviamente ovviamente di queste cose. Per chi invece guarda Runtime Radio e ascolta anzi Runtime Radio, vi ricordo che domani mattina alle 7 in live, il mattino allora in podcast con Leo Vargion, e invece domani sera forse alle 23 ci sarà Runtime by Night, sempre su runtimeradio.it e forse su Twitch, adesso lo dobbiamo ancora decidere. E sabato mattina alle 8:30, 9:30 io e Michela De Paola con Disordinati Informati, per fare un po', insomma, darvi lo sprint per la, per il fine settimana. Io ringrazio veramente tanto Federico, mi ha fatto piacere, perché ci incontriamo poco, diciamo, nelle varie situazioni, occasioni, però quando ci incontriamo è sempre un piacere, perché è una brava persona, mi piace proprio l'approccio in cui, col quale lui ovviamente si pone nei confronti delle cose, è un curioso, una persona con la quale ci si parla di delle cose che ci piacciono poi fondamentalmente, e quindi grazie Federico. No, grazie a te, anzi, e grazie a Davide ovviamente, insomma, per l'accoglienza, mi ha fatto super piacere, insomma. Poi se hai dei canali dove che vuoi pubblicizzare, dei podcast, dei canali YouTube, delle cose, il tuo canale, cioè so che collabori con dei canali su Twitch, vai tranquillo. Quello diciamo, diciamo come, aspetta, appena riparte, eccolo là, no, dicevo come ragazzi, stasera ho questa webcam, ragazzi, un va. No, dicevo, come Manium CDI, diciamo, ho un piccolo, diciamo, un piccolo profilo Instagram nato da poco, però in realtà faccio parte di un team che scrive, diciamo, recensioni di giochi fino al 2000, quindi non oltre, se non su piattaforme vecchie, che sono i Bitelloni. Anch'io appunto come Manium CDI sono un Bitellone, quindi scrivo lì, e poi partecipo a diversi podcast, tra cui quello di Game Revs, a volte insomma sono stato ospite su Atari Teja, insomma vado un po' dove mi chiamano, dove mi porta il cuore abbastanza. Sì, esatto, diciamo dove mi invitano spesso vado, insomma, a fare due chiacchiere, apprezzo molto, insomma. Vabbè Vincenzo, abbi pazienza, ma a una certa ora le trasmissioni finiscono. Comunque io volevo ricordare che abbiamo parlato di tanti formati, ma non abbiamo parlato e non ne parleremo, però già solo il nome Federico Magnum CDI ci rivela che c'è questo formato che ha avuto il suo gran successo, che comunque è stato prima dei DVD. Non abbiamo parlato. Non a caso lui è il mega esperto del CDI. Però non ne abbiamo parlato. È il mega esperto, ma non ne abbiamo parlato. Però almeno citiamo che CDI è un formato video che forse è stato il precursore, dopo il Laserdisc al DVD, in mezzo c'è stato questo CDI che magari in Italia ha avuto una diffusione un po' particolare, perché c'erano già i computer eccetera, e i video ormai li si guardava in un altro modo, però sapevo che in paesi stranieri ha avuto molto più successo che in Italia. Sì, il video CD che è nato poi in quell'epoca lì, appunto, effettivamente in Occidente non ha avuto nessun tipo di... Io ce l'avevo, c'avevo pure i film, mi ricordo, ho visto My Life in video CD, ragazzi, le lacrime. Guarda, io ho Caccia a Ottobre Rosso in video CD. Appunto. Nel senso, bravo, ce l'avevo anch'io, bravo. Vedi. Però effettivamente da noi è durato poco, mentre ha attecchito in Asia, perché in Asia la VHS e i formati, diciamo, a nastro non si sono mai imposti, ma il video CD è diventato da loro VHS. E poi vuoi immotivatamente, perché insomma il formato era l'MPEG base proprio, cioè nel senso. Sì. Tra l'altro io avevo le videocassette di Star Trek The Next Generation e le ho tutte messe in video CD, in tutte. Pure lì ore di rendering, vabbè, diciamo. Ma infatti pensate che in Asia, in alcuni paesi, escano ancora i film in video CD, che è una cosa assurda. Sì, oggi, ancora oggi. Sembra che nel 2022 ancora escono più. Alla faccia dell'alta definizione. Esatto, alla faccia dell'alta definizione. Ringrazio e saluto Davide Survival Hacking Gatti. Dove ti possono trovare, Davide? Se sa, oramai c'hai 15.000 iscritti, vaffanculo. Vabbè, mi trovano su www.survivalhacking.it e tra un'ora uscirà un interessante spot pubblicitario che dovete andare a vedere tutti. Assolutamente. Lo faremo. Cerco anch'io. A mezzanotte esce. Survival Hacking è il canale YouTube di Davide Gatti, dato che lui mette il sito, ma insomma... è più facile andarlo a cercare su, su YouTube, dove lui ovviamente fa cose, monta cose, costruisce cose elettroniche. Si armeggia con cose tutte a livello elettronico. La passione dell'elettronica. Beh, d'altronde è stata la tua storia l'elettronica, quindi insomma ci stava. Sono molto contento, lo dico sempre e continuo a dirlo, del progressivo ma costante successo di questo canale, perché ci ho creduto, proprio ci credevo, ero convinto che sarebbe successo, insomma su questo non ci piove. Bene ragazzi, io vi saluto ad entrambi, grazie Davide, grazie Federico. Diciamo che Carlo, che nella sua breve apertura, esatto, risalutiamo anche Carlo, hai ragione, vabbè, io sono un po' cotto, sto a fare più live questo periodo che altro, quindi grazie ragazzi, buonanotte a tutti e ci vediamo la prossima puntata, qua giovedì prossimo sempre alle 21:30, ciao.